È stata l'ennesima notte di roghi della spazzatura e si registra un preoccupante incremento dei cumuli dati alle fiamme, oltre 100 spenti a fatica dai vigili del fuoco ormai allo stremo e tutti impegnati su questo fronte, incendi ma anche cassonetti rovesciati e sacchetti sparsi sull'asfalto che provocano blocchi stradali. La Campania è sommersa da circa 50.000 tonnellate di rifiuti. Ieri ne sono state raccolte 7.000 che equivalgono alla produzione giornaliera della regione. A Napoli provincia, la situazione più grave, particolarmente colpite la zona vesuviana e l'area flegrea. In città la spazzatura è ovunque, rischia di vanificare gli sforzi di riportare qui i turisti. Dopo il no di Chiaiano, il commissario De Gennaro sta cercando di allestire un sito di stoccaggio nel Casertano che dovrebbe portare una boccata d'ossigeno. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.